so, mi sono caduto dal letto, una qua era. Ma non se non hai caduto bene allora, perché se no non avrebbe risposto. Bravo padre, attimo che ci vuole, Salvatore quando vuole uscire forte già esce forte. È che lo tiene sempre al minimo con la radio, per non rompere le palle. Ma quando bomba esce la radio una cannonata. Attento Valeria Marini, ci sei, Valeria Marini. Al telefono Drumi. Ciao Salvatore, l'hai sentito? Ma c'era anche lì, aspetta, Mannavarchi! Non sono Mannavarchi te. Mamma mia, che cazzo Mannavarchi, Pucci in femmina verga. Lucia. Va bene, avete capito? Avete capito? Perché non cambiate Felipe a Vannamarchi? È la sorella di Vannamarchi che piace a Luca. Ti piace Barrazzo a Luca? A Marini le piace a Luca. A Marini le piace, l'hotel Marini le piace a Luca. No, perché ce n'è uno qua che si chiama Barrazzo, che lo vuole conoscere a Luca. Che sono Marrazzo? Ma quello lì è orecchione, Sabato. No, no, non è orecchione, non ce ne ho piccole le orecchie. Che sta allucinante, Sabatore. E che c'ha piccole le orecchie, Sabato, ma magari c'ha qualche altra cosa grande quello, bisogna stare attenti. Quello va bene a Luca, c'ha le orecchie piccole, ma l'attrezzo è, già è attrezzato bene, è anche robusto, non lo piega così tanto Luca. Ma non glielo piega così, dici? No, ho detto che non ce la fa a piegarglielo. Cosa non glielo ce la fa a piegarglielo, che cosa? Sì, cavolo, anche lì, cavolo, io credo che capiva subito, invece non capiva, non capisce niente. Già ho capito, Salvatore, stavo facendo il furbo. Già me ne sono accorto. Come andando stai? Sì signore, adesso non so neanche come andava a casa. Ma freddo c'è, vabbè tu c'hai il trattore quello con riscaldamento. No, è bello che sto salendo di meno su questo trattore qua, arando. Perché ho dovuto smontare l'altro trattore, l'ho dovuto fare in due, domani lo devo fare intorno in tre, perché devo mettere la guarnizione vicino al cambio. Oggi ho dovuto cambiare il forcellino della flessione, l'ho dovuto fare in due. E l'ho smontato stamattina, sta poco fa, l'ho rimpiazzato, gli ho stretto un polmone, domani devo togliere il terzo pezzo per mettere la guarnizione nel cambio. Ho capito. Aggiù compreso, Sabato, aggiù compreso. Vabbè, amico mio, ti saluto perché è tardi, dai. Se no domani mattina, altro che lo trattore che esci da me, manco i cannonati. Ciao, Sabato, fatti sentire, già siamo sempre qua. Ciao, nuovamente Antonio, ciao a tutti. Buonanotte, miau, miau. Dove sei andato? No. Questa è Luca. La gente tutti dice a faccas. No. Ciao dottor, ciao, buonanotte, ciao a tutti. Dai, ci vediamo domani mattina Antonio, allora. Subito ora. Ma non venire tardi, no cazzo, non venire tardi, c'è un casino. Io voglio venire tizio domani. Dai, dopo le 7 ci vediamo, ok? Io alle 7 sono lì, va bene. Va bene, dai, esco prima e controllo tutto. E ci vediamo lì, dai, così prima finisco e meglio è. E prima me ne rientro. Ciao, buonanotte, miau. famiglia, non ti rilassi, ma di buonanotte, alla mattina, e mi amo. Ciao Salvatore, buonanotte anche a te, buon lavoro, buon tutto e tutta la mia. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti quanti, buonanotte.